ragazzo cercherai nella stagione dei tuoi guai un po' d'amore, un po' d'affetto. E nella notte griderai e in fondo al buio troverai solo il cuscino del tuo letto. Non devi piangere, non devi credere che questa vita non sia bella. Per ogni anima, per ogni lacrima, nel cielo nasce un'altra stella. Molti si bucano, altri si estasiano e non troviamo mai giustizia. E non si parlano e poi si perdono perché non amano abbastanza. Cercherai nella stagione dei tuoi guai un po' d'amore, un po' d'affetto. E disperato griderai e in fondo al buio stringerai solo il cuscino del tuo letto.